9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori e buon giorno oggi. Martedì 7 giugno, San Geremia. Il tema della giornata è la cosiddetta verifica, insomma l'incontro che ieri c'è stato tra Berlusconi e Bossi. Era un incontro che Gianni Letta aveva acceso nella redazione di tutti i media. Gianni Letta aveva avuto una dichiarazione di quelle estemporanee, per carità, non cariche di chissà quale significato, ma che diceva se la giornata molto calda, e così si era caricata l'attesa. Se non che poi l'incontro tra Bossi e Berlusconi è un incontro che i giornali annunciano oggi, descrivono nei pezzi di retroscena come un incontro non particolarmente segnato da chissà quale asperità. Sì, è vero, c'è una questione aperta sul trasferimento dei ministeri, anzi su uffici dei ministeri al nord, quindi la faccenda è derubricata, però in buona sostanza la linea confermata è quella di un'opinione espressa da Bossi a Berlusconi: finché te la senti andiamo avanti, fino al 2013 vediamo. Quello che doveva essere il grande scontro su Tremonti, il taglio delle tasse, vede un Giulio Tremonti, secondo l'unanimità o quasi della stampa italiana, tenere ferma la linea del rigore senza particolari dissensi in questo, ed è forse la cosa più significativa tra Bossi e Berlusconi, perché anzi alcuni giornali, Repubblica, che di sicuro non è quella meno interessata a sollevare questioni all'interno del centrodestra, ma alcuni giornali come Repubblica sostengono invece che in campo leghista inizi per la prima volta a diffondersi qualche sospetto intorno al ministro dell'economia, quindi novità sarebbe rispetto al tradizionale allineamento tra la Lega e Giulio Tremonti, e in questo quindi anche nella Lega qualcuno inizierebbe a dire: beh, però forse il ministro dovrebbe fare qualche cosa di più sul taglio delle tasse. Quello che posso dirvi io in questo caso, parlando come giornalista che ogni tanto su questi argomenti approfondisce un po', è che da quanto io ho capito sul tema delle richieste che nell'ambito del centrodestra sono forti al Ministero dell'Economia di anticipare qualche cosa della riforma fiscale senza rinviarla a fine legislatura, come era un po' lo schema suo iniziale dopo i quattro tavoli tecnici, quello che vi posso dire io è che credo di aver capito che comunque il ministro solidamente al Consiglio del 16 giugno porterà il decreto così come l'aveva preparato, per consentire di centrare l'azzeramento del deficit entro il 2014, l'obiettivo molto impegnativo e secondo me sacrosanto posto dal governo con la decisione economica e finanziaria di poche settimane fa. Azzerare il deficit entro il 2014 significa, rispetto alla struttura attuale del bilancio pubblico, prevedere tra il 2011 e il 2014 appunto una riduzione del 7% rispetto al livello attuale della spesa primaria pubblica e del 5% della spesa corrente. Quindi è una cosa impegnativa, ci sono più di 40 miliardi di saldo da garantire in più, aggiuntivi, nel 2011-2014. Credo che su questi giornali che avevano già detto che il più sarà non tanto per l'anno a venire ma per il 2013-2014 confermati, ma intanto gli interventi anche per questo 2011-2012 potrebbero essere non meno di 7-8 miliardi. In più, la cosa sulla quale non metto una mano sul fuoco, ma sentiti tecnici e ciò che bolle in pentola al Ministero, mi sento di dire che l'ipotesi di un anticipo della riforma fiscale potrebbe riguardare un ammontare intorno ai 14 miliardi di euro. Come si fanno e a cosa servono questi 13-14 miliardi di euro? Tenete presente che alzare di un punto l'aliquota IVA, non solo quella massima del 20%, ma anche quella del 10%, poi c'è un'aliquota ancora più bassa del 4%, le due aliquote preferenziali sono il 4 e il 10% in ordinamento italiano, ma lasciando intatto quella del 4% e limitandosi al zero di un punto quella del 10% e di un punto quella del 20%, già così si ricavano circa 6 miliardi e mezzo, 6 miliardi e 8. Poi c'è il vasto capitolo approfondito da uno dei quattro tavoli tecnici in vista della riforma fiscale, quello degli delle tante forme di incentivo, di sgravio fiscale che nel nostro ordinamento sono previste, e da quello che ho sentito al Tesoro l'obiettivo sarebbe quello di iniziare a raschiarne 4-5 miliardi. Del resto è vero che Confindustria, che dice che non vuole più incentivi, bene, il Tesoro la prendono in parola, quindi a quei 6,5 miliardi, 6,8 miliardi, aumentando di un punto l'aliquota del 20%, del 10% dell'IVA, si sommerebbero altri 5 miliardi di minori sgravi incentivi fiscali nel nostro ordinamento. Ce n'è per molto di più nel nostro ordinamento, e saremmo più o meno a 11,5 miliardi, quasi 12 miliardi. Un altro paio di miliardi si farebbe con un ritocchino all'attuale disciplina fiscale in materia di cosiddette rendite finanziarie, stando un po' attenti a non toccare i conti bancari, ma insomma il totale sarebbe, facendo la somma, intorno ai 14 miliardi di euro. Questi 14 miliardi di euro come si potrebbero destinare? Già solo, poiché la forte richiesta convergente è quella di iniziare dall'aliquota più bassa dell'IRPEF, quella attualmente 23%, abbassare dal 23% al 20%, l'aliquota più bassa dell'IRPEF, che è quella che riguarda tutti, chiaramente, poi salendo ci si esclude, ma quello è lo scaglione che ha il maggior impatto. Ecco, già fare quella roba lì costa 12,5 miliardi, 13,5 miliardi, anzi, a dire la verità. Quindi se si facesse già solo quello, se n'è andato tutto quello che ipoteticamente si può mettere con il ritocco sull'IVA, con il ritocco sulle rendite finanziarie e con il prosciugamento di una parte degli incentivi fiscali. Se invece bisogna adottare la linea sostenuta anche dalle imprese, cioè di fare un intervento sull'IRPEF ma anche uno sull'IRAP, allora bisognerà diluire ancora di più. Questo, da quello che so io, è lo stato dell'arte attuale nel confronto tecnico al Ministero, ma questo Tremonti è molto cauto, non vuole che esca niente, non si fida molto delle variabili politiche, dice queste sono cose da ammirare con grande attenzione, perché se sbagliamo questo non abbiamo molti margini, mettiamo a rischio i saldi e in più non portiamo a casa neanche la riforma fiscale ben fatta, che è la cosa che gli interessa di più. Comunque, su tutto questo sentiamo come la pensano gli osservatori che abbiamo interrogato, chiedendogli di darci la loro opinione. Effettivamente io sono colpito da una cosa sui giornali di oggi, effettivamente pare a me almeno, il caso di Santoro e della trasmissione che va fuori dalla RAI per approdare, tutti lo scrivono, sappiamo tutti che sarà così, dopo altri milioni di euro del contribuente dati a Santoro e al suo bel gruppo di lavoro, che bella trovata, approderà alla 7. Mi pare che questo caso abbia sui giornali più evidenza di tutto il resto. Allora, commentiamo tutta questa giornata e i suoi sviluppi con Maurizio Lupi, che è il vicepresidente della Camera per il PDL. Buongiorno e ringrazio Lupi. Buongiorno Oscar. Abbiamo poi con noi Mattia Feltre, che mi è carissimo, inviato della Stampa. Buongiorno e grazie a Mattia. Buongiorno carissimo Oscar. E Giorgio Mulè, direttore di Panorama, un altro compagno di scorribande per quello che mi riguarda, direttore aulico, vi saluto, buongiorno. È un piacere sentirti Oscar, buongiorno. Allora, iniziamo da Maurizio Lupi, perché io devo dire la verità Lupi, tutti i leghisti che avevano preso impegno di esserci sono spariti come neve al sole man mano che la serata incombeva ieri. Non ho capito perché, non vogliono dire che sono soddisfatti dell'accordo tra Berlusconi e Bossi, oppure se c'è qualche problema, oppure se non c'è nessun problema, ma comunque mi affido alla sua interpretazione autentica. Come è andata ieri? Cosa bisogna aspettarsi? Beh, innanzitutto buongiorno anche a tutti gli ascoltatori. Non lo so, bisognerebbe chiederlo a loro. In ogni caso, ieri la temperatura, come lei ha detto, non era così calda a Milano e quindi c'è stato un buon incontro che ha messo a fuoco le cose che lei ha fotografato in maniera molto chiara. Si tratta di lavorare insieme con il Ministro dell'Economia del Tesoro per, da una parte, garantire uno dei paletti fondamentali dell'azione di governo di questi anni, la stabilità e il recupero del debito pubblico, l'altra la questione del rilancio. Credo che sia Lega che il Popolo della Libertà, tra l'altro ieri era l'esordio del mio carissimo amico Angelino Alfano come segretario nazionale politico del Popolo della Libertà, abbiano concordato insieme col Ministro Tremonti e con il Presidente del Consiglio che su questi due paletti bisogna con forza procedere. Si è concluso il tavolo i quattro tavoli per la riforma fiscale. Io immagino, questo è il mio auspicio, che contemporaneamente ad una manovra che è già stata anticipata anche dal DEF, quella che lei ha accennato di circa 40 miliardi, 8, 12, 20 dovrebbe essere così avevamo letto nei documenti mandati al Parlamento nei tre anni 12, 13 e 14, si possa sin da subito innanzitutto confrontarsi e discutere, non di quello che prende Santoro con le nostre tasche, che non mi sembra la prima grande notizia, la notizia è sono i 2 milioni e mezzo di euro, mi sembra che sia, confrontarci su il modello di riforma fiscale. Ci sono diverse discussioni che devono essere immediatamente portate a sintesi. Primo, quante aliquote dobbiamo portare? Qual è l'aliquota più bassa? Se si deve trasferire, come è uno dei temi su cui per esempio mi risulta che Confcommercio abbia qualche perplessità, una rivoluzione nel nostro paese, cioè di spostare la tassazione dalle persone alle cose, quindi spostarla dall'IRPEF all'IVA, con l'ipotesi ovviamente dell'aumento di 1-2 punti dell'IVA sui prodotti. E questo mi sembra che sia la prima grande questione, e sono convinto che già parallelamente alla manovra che verrà presentata entro fine giugno ci sarà una prima legge in cui saranno stabiliti questi principi e finalmente il Parlamento si possa paragonare su queste cose. Secondo elemento che secondo me si sta trascurando, da oggi inizia la discussione alla Commissione Bilancio e Finanze di un decreto dello sviluppo che non è indifferente, perché l'altra cosa che le imprese chiedono è, prima ancora che di contributi, è la deburocratizzazione, la semplificazione, e il grande tema che è emerso, se è possibile fare una lotta all'evasione fiscale senza l'oppressione fiscale nei confronti di tutte le imprese, come è avvenuto in questi anni. Oggi tra l'altro c'è un dibattito alla Camera importante su questo tema, con due mozioni, il grande tema delle ganasce fiscali, eccetera. Ecco, mi sembra che questi siano stati i contenuti dell'incontro di ieri e che non debbano essere altro che questi. C'è un governo, se c'è una maggioranza stabile, abbiamo non un giorno ma due anni davanti, usiamo fino in fondo questi due anni per fare quello che i cittadini ci chiedono, cioè parlare meno e governare di più. Forse posso chiederle, forse anche nel risultato complessivo del secondo turno amministrativo, che insomma voglio dire, è stato quello che è stato per il centrodestra, una grandissima delusione, ma la novità che ha interessato anche significativi test che la Lega ha fatto da sola, o comunque con propri candidati a Novara, o con una strategia diversificata come accadeva in alcuni comuni in Lombardia, e che non ha questa volta ottenuto grandi effetti come in passato, quando il PDL perdeva voti e la Lega li recuperava, anzi andava ancora più su. E forse anche questo ha contribuito, possiamo pensare, onorevole Lupi, a rendere un po' meno incandescente l'atmosfera, a rendere più realistico l'esame del fatto che tanto vale fare un altro pezzo di strada valutando bene dove mettere i piedi invece che alzare i toni. Che dice? Guardi, io la leggo, sono uno molto chiaro, la leggo in maniera leggermente diversa, ma poi la sostanza è uguale alla sua analisi. L'anno scorso, se gli ascoltatori si ricordano, tutti i commentatori politici, analizzando il voto delle regionali, che aveva visto una vittoria del centrodestra, ma innanzitutto un'affermazione della Lega, avevano detto: se qualcuno è scontento si sposta dal Popolo della Libertà alla Lega, rimane un consenso complessivo sul governo, la Lega cresce, più radicata, eccetera. Queste elezioni amministrative hanno suonato un campanello d'allarme per noi, da che punto di vista? Che l'alzare i toni della politica, la rissa continua, anche legittimamente continuare a, per esempio, a parlare sempre solo di cose da fare e mai farle, sposta poi il logoramento anche fatto dall'opposizione, da una certa parte della magistratura nei confronti del Presidente del Consiglio, i 5 processi, eccetera, sposta totalmente l'attenzione dalle cose da fare a questi temi e porta a un giudizio negativo non sul Popolo della Libertà ma complessivamente sul governo. Quindi il punto non è che se scende il PDL sale la Lega, il punto è che Popolo della Libertà e Lega, che sono chiamati insieme a governare questo paese, insieme saranno giudicati nelle cose che sono state fatte, secondo me tante buone, molte ancora da fare e qualche errore è stato fatto, ma ancora di più negli ultimi due anni di legislatura. Da questo punto di vista non è che è cambiato l'atteggiamento nei confronti del ministro Tremonti, è aumentata secondo me la coscienza da parte della Lega e del Popolo della Libertà, e credo anche da parte del ministro Tremonti, che gli ultimi due anni devono mettere a fuoco e a raccogliere il lavoro che si sta facendo, ma ancora di più un'esigenza che emerge. La crisi morde fortemente, c'è bisogno della stabilità, ma c'è bisogno anche che alcuni grandi punti del programma del Popolo della Libertà e della Lega siano attuati, una parte il federalismo, ma dall'altra i temi che lei ha assolutamente affrontato. La sfida affascinante è: si può fare questo mantenendo rigore nei conti e stabilità, ma contemporaneamente rilanciando e essendo attenti alle imprese, alle famiglie, alle persone? Ecco, io credo che sia questo. È saltato l'alibi da parte della, tra virgolette, della Lega che con i distinguo, oppure che comunque sempre e comunque la Lega può raccogliere consenso. La Lega raccoglie il consenso insieme al Popolo della Libertà se governa e governa bene. Senta, una domanda fuori dai denti, perché so che poi ci lascia. Tra l'altro, pubblico, ragazzi, potete mandarmi tutte le sms che volete dicendo: onorevole Lupi, da solo, vergogna, vergogna, vergogna. Potete dirmi vergogna finché volete. Ieri abbiamo fatto una trasmissione che era squilibrata da una parte, oggi era dedicato ad analizzare l'incontro di ieri, tutto l'ambito del centrodestra, i leghisti non sono venuti. Potete urlare e gridare quanto volete, finché sto qua io le trasmissioni le decido e le faccio come mi pare, e non uso il bilancino. Per il bilancino rivolgersi altrove, perché l'offerta fatta col bilancino e i conduttori ridotti a fare semaforisti è pieno e ci avete la maggioranza. Io, fino a che mi tengono qua, decido i temi e più o meno li imposto sentendo la gente che mi interessa. Onorevole Lupi, la vediamo al ministero al posto di Angelino Alfani, come Angelino Alfano, come dicono molti quelli del Toto scommesse, o devo dire fuori dai denti, come preferirei io, la teniamo come campione battitore libero in vista di un futuro in cui forse c'è bisogno di teste libere? No, io guardi, sono convinto che primo non andrò al Ministero della Giustizia, ma secondo che oggi ci sia assolutamente bisogno di continuare. Io faccio il vicepresidente della Camera, stiamo lavorando insieme con il capogruppo, con gli amici del partito, adesso con Angelino Alfano, a assumerci le responsabilità che dobbiamo assumerci, con coscienti anche degli errori che possiamo aver fatto e anche le tante cose che dobbiamo fare. Quindi dal mio punto di vista sto bene a fare il vicepresidente della Camera e credo di continuare a farlo. Va bene, ora chiedo scusa, Oscar, chiedo scusa a coloro che si sono arrabbiati, ma io sono stato invitato da lei, esatto. E credo di anche lei è incolpevole. Il colpevole sono io e mi prendo la responsabilità, però siccome ieri già mi è capitato di dire ieri sera da Lerner cosa penso di una politica che fugge di fronte a questi referendum e così via, con la stessa chiarezza dico che per esaminare la cosa di ieri bisogna avere gente del centrodestra, perché cosa volete? Se invito uno del centrosinistra mi dirà che è tutto inutile, che ridicono, che si devono dimettere, eccetera eccetera, ma queste sono legittime opinioni del centrosinistra. Sorpresa nel centrodestra, il fatto è che si litiga meno di quanto volevano i giornali, c'è un tratto di strada comune e ci sono cose da fare, vedremo come le faranno. Per il momento andiamo in pubblicità e poi ci scateniamo con due lingue libere, perché Giorgio Mulè e Mattia Feltri ci faranno dimenticare di questa atmosfera idilliaca per descriverci invece la vera guerra che centrodestra, così sono, siete contenti elettori dell'opposizione, è la vera guerra che c'è dietro l'angolo e soprattutto, come dicono molti, ma come Giannino ci dice che sei per diminuire le tasse e ci stai scrivendo che alzano l'IVA eccetera. Sentite, io vi ho fatto un'altra cosa, vi ho detto che cosa mi risulta come giornalista al ministero, non ho detto che è il mio programma sarebbe, ohimè, vi vedrebbe molto meno felici, perché vi stangherei con riduzioni della spesa reale ancora superiori a quelle che Giulio Tremonti presenterà e che lo faranno passare come il solito tagliagole, mentre invece vi dico che per abbassare le tasse bisogna diminuire molto di più, far uscire lo Stato da dov'è, capite? Il problema è che centinaia di migliaia di dipendenti pubblici senza perdere il posto di lavoro andrebbero consegnate con regolare gare all'esercizio in concorrenza privata di servizi che restano pubblici ma non hanno bisogno di piante organiche pubbliche che gravano sulle tasche dei poveri. Giannino, questo farebbe Giannino, ma Giannino non fa politica, non è ministro, e quindi vi beccate quello che Giannino invece fa come giornalista. Niente da fare, gli sms sono incandescenti, gente che mi avvisa che ha spento la radio, che sarei un tifoso a libro paga di Berlusconi. Benissimo, fate come volete. Io vi dico, i vertici del centrodestra li si fa commentare quelli del centrodestra. Quando ci sono cose del centrosinistra si fa commentare del centrosinistra. Ieri abbiamo fatto una puntata sull'effetto donna scatenato per il comportamento di Berlusconi che ha portato le donne a votare in massa. Questo ci dice l'interpretazione dei dati elettorali per De Magistris e Pisapia. Il problema è che a voi non piace l'idea dell'esercizio della libertà del giornalismo. giornalista, volete semafori, oppure ti fate per quelli che vi costano milioni di euro e che sono inventori di grande format. Benissimo, teneteveli, però vi tenete fino a che mi tengono anche a me. Lo dico perché ho un po' le tasche piene di leggere insulti, devo dirvi la verità, di ascoltatori che dicono che si vergognano di me e si vergognano del direttore di Radio 24, si vergognano. Vergognatevi un po' voi, cari ragazzi, eh? Lo dico un po' sinceramente, del fatto che pretendete che i vertici del centrodestra li commentino al centrosinistra. Al centrosinistra chiediamo ragione del fatto del perché il PD ha per esempio depositato una bella proposta di legge firmata Bersani e Franceschini che propone la remunerazione in tariffa dell'acqua e poi vi dicono che voteranno sì al referendum. Il referendum, ne parleremo più avanti entro la fine della settimana, sono un bel esempio di politica che al centro, a destra e a sinistra diventa pura demagogia. Oggi leggete l'articolo di Luca Ricolfi sulla Stampa, io lo condivido dalla prima all'ultima parola, non si salva nessuno di fronte al fatto che dei quesiti e di ciò che concretamente tocca il referendum, cioè l'acqua, il nucleare, legittimo impedimento, tutto diventa un pretesto invece per avere un voto pro o contro il governo. Naturalmente pro il governo è un po' impensabile, quindi simile all'astensione. Per il resto, chiunque abbia detto il contrario al referendum mi chiede di fare l'opposto. Di Pietro, ministro delle infrastrutture, era per le gare pubbliche e per l'ingresso dei privati nell'acqua. Vi leggerò fior di suoi articoli del ministro delle infrastrutture dell'epoca. Oggi invece è la testa della battaglia contraria, così via. Questa è la politica che vi piace, a me non piace. Allora sentiamo Mattia Fetter, il tuo giornale stamattina, cioè La Stampa, è a dire la verità secondo me un po' più interessante, perché dice primo che la Lega non brinda ieri un vertice interlocutorio, ma dice solo promesse vaghe, cioè i leghisti continuano a non fidarsi, non come scrivono tutti gli altri giornali, Pappe Ciccia, Berlusconi, Bossi. Secondo, dice l'incontro, lo scontro su Tremonti c'è stato e ha vinto Tremonti. Quindi in realtà è questa l'interpretazione meno all'acqua di rosa di quella che ci ha dato anche un po' Lupi? Io ritengo proprio di sì. Naturalmente Lupi è ottimista ed è giusto che lo sia, perché se non fosse ottimista lui ci sarebbe da spararsi. A me però non è che mi è sembrato un vertice così trionfale. Diciamo così che fra tirare le cuoie e tirare a campare si è deciso un po' di tirare a caso, buttare lì qualche numero. Tu prima li hai elencati con grande precisione, per quello che ovviamente io ne possa capire, visto che non sono un giornalista economico. Naturalmente mi fa molta impressione che si ipotizzi di toccare le aliquote IVA, cioè mi sembra veramente un governo che non sa dove andare a pescare per raccattare qualche consenso. La Lega, che a differenza del PDL è un partito che ha sempre avuto lo sguardo un pochino più lungo, non si accontenta neanche stavolta di qualche promessina da buttare lì, poi quando va sul platone di Pontida farà la sua propaganda, per l'amor del cielo. Però non è berlusconiana che dice vi taglierò le tasse e gli elettori ci credono. Questa del taglio delle tasse è una promessa che ci viene rivolta periodicamente dal 1994. Sono passati 17 anni. Ora, che il governo ci riesca nei prossimi 2 anni, con la crisi economica che tutti sappiamo, e quindi di corsa, intanto che la legislatura si conclude, a me sembra molto molto difficile. Per le mie tasche faccio gli auguri al governo. Aggiungo una cosa, se posso, velocemente. Poi bisogna vedere bene cosa succede nel mondo della politica, perché, d'accordo, raccontiamo questo vertice, raccontiamo il retroscena, però bisognerebbe vedere che la Lega non è così sfavorevole ai referendum. Berlusconi ha detto che, Bossi ha detto che è attraente il referendum, i 2 referendum sull'acqua. Nei social network gli elettori leghisti sono particolarmente attratti da tutti e 4 i referendum. Allora, se poi per caso la Lega aiuta a raggiungere il quorum, questo è un dato molto molto più importante delle chiacchiere spese ieri. Sì, sono completamente d'accordo con Mattia Feltri. È un fatto che l'elettorato leghista, per esempio i sistemi dell'acqua pubblica, è molto vicino ai raccoglitori del 1.400.000 firme. Non sono certo, e come si è visto nelle amministrazioni che governano, non sono certo per le gare su piedi di parità o addirittura il pregiudizio a favore del privato. Quando mai? I leghisti sono per tenere tutto in house, esattamente come si propongono coloro che hanno raccolto le firme su quei 2 referendum. Tra l'altro il vero problema sarà domenica i quorum, e il quorum tra legittimo impedimento e nucleare, malgrado il giugno, malgrado il tentativo del governo, che è molto costoso, quasi 300 milioni di euro, di non farli lo stesso giorno delle amministrative, come io avrei fatto a dirvi la verità, il rischio del quorum è molto elevato, questo è il mio giudizio, vediamo se mi sbaglio. Che pensa invece Giorgio Mulè? C'è cenere che prevale sul fuoco o il fuoco sotto la cenere invece inevitabilmente verrà fuori, un pochino come Mattia Fetri ci ha fatto capire? la prima considerazione è considerare chi ieri si è trovata ad Arcore, cioè i due leader della PDL e della Lega. Erano, sono due leader in forza? No, diciamo che sono in questo momento due debolezze che si sono incontrate. Bene. Qual è il dato? Il dato è che ieri da questo vertice poteva implodere la maggioranza e la Lega poteva staccare la spina, come si è detto più volte. Le due debolezze hanno invece raggiunto un accordo che a entrambi politicamente conviene andare avanti. Chi ne gode? Ne gode Tremonti, perché ovviamente tra le due debolezze non c'è nessuno che può imporre un percorso politico davanti anche alle non minacce, ma insomma gli scenari terrei di Tremonti, il quale ieri ha detto, avendo fatto anch'io qualche telefonata, guardate che non appena noi annunciamo una manovra o una riforma fiscale, quindi mettiamo mano, immediatamente le agenzie di rating abbassano il rating dell'Italia e poi voglio vedervi a inseguire la Grecia che a ottobre, a settembre andrà in default e quindi a fare i conti con i mercati internazionali. Allora così si sta preferendo? Si sta preferendo, anche qui da quello che è uscito ieri da Arcore, far passare alla storia il ministro dell'economia per il pareggio di bilancio. Il problema è che il governo non passerà alla storia per questo, passerà alla storia per quello che non ha abbassato le tasse. Da qui uno stato di impasse, di stallo, che è quello che è poi uscito ieri da questo vertice. Alla fine però, guardiamo da un altro punto di vista, è sliding doors, cioè ieri poteva cadere il governo e il governo poteva andare avanti. Si è deciso forse, e in questo concordo con l'analisi fatta prima, di tirare a campare. Quel che è certo è che non si campa molto a lungo dopo le premesse che sono state buttate ieri, perché è nella logica delle cose che cinto d'assedio il governo rischia grosso, anche perché la maggioranza, come sappiamo, in Parlamento è un po' così, po' così scricchiolante. Allora, io devo dirvi la verità, come vedete, nelle analisi di Mattia Fetter e di Giorgio Mulè, che immagino molti di voi considereranno dei giornalisti viziati da un orrido pregiudizio a favore del tiranno, eppure vi è stato detto fuori dai denti che l'incontro di debolezze non fa pensare a chissà quale forte cammino, che se tutti presentavano contro Tremonti ed è Tremonti quello che vince, come ovvio su una linea che non è fatta per compiacere agli elettori, questo diventerà un problema, e che magari tra pochi giorni, ovvio vi fosse il quorum, la scricchiolata sarebbe ancora molto ma molto più forte di quella già molto forte del secondo turno amministrativo. Per quello che mi riguarda, come vedete, i giornalisti sono liberi a prescindere dai timbri che ci mettete voi, e io condivido questa analisi. Dico in più che l'obbligo, diciamo così, di rigore europeo, visto che stiamo comunque da 16 mesi con un'Europa che non è riuscita a risolvere il problema dell'eurodebito, ma anzi l'ha aggravato per via del contrasto tra la linea del rigore tedesco, che si sta impadronendo di pezzi di sovranità nazionale, e l'illusione dei governi nazionali dei paesi eurodeboli, che credono di poter continuare ad avere una politica in mano quando invece sono di fatto commissariati, ma non osano dirlo ai propri elettori. Il fatto che siamo commissariati anche noi e non abbiamo più una politica di bilancio, perché questo ci impone l'Europa e il nostro debito pubblico, crea un problema crescente, perché gli elettori del centro destra che crescono sono come questo che ci ha mandato un sms adesso: sono commerciante, elettore della Lega di lunga data, ho annullato il voto e continuerò a farlo per sopruso e vessazione fiscale che questo governo e l'agenzia delle entrate mi riserva. Questo vi leggo uno dei tanti sms. Questa componente c'è, esiste forte, ha ragione secondo me Mattia Feltri, io sono uno di quelli che dicono che dopo 17 anni sono il primo che voleva dei fatti su questo, e non è il rigore di Giulio Tremonti la risposta alternativa su questo. Io ci litigo sempre con Giulio Tremonti, perché dico il rigore è necessario, in più bisognava far vedere se si era capace di una linea liberale, antistatalista, liberista, che abbassa le tasse e fa ricrescere l'economia, e per farla ricrescere c'è bisogno di 5 anni di fronte a sé, bisogna farlo al centesimo giorno da che si è avuto un mandato. Questo centrodestra non ce l'ha mai fatto, ma in più c'è un'ondata forte nel paese contro Berlusconi e i suoi eccessi, ed è tutto convinta che dall'altra parte ci sarà una risposta. Io su questo sono scettico, ma questa ondata c'è, è forte, e vedrete che con il referendum si rischia e si corre la probabilità, a seconda di come la si vede, che la spallata sia di nuovo molto forte. Eccoci tornati in studio per quest'ultima parte della trasmissione di oggi. San Geremia, che tutti Santoro si porta via, no, si porta via dalla Rai, li porta alla 7, che così continuerà ancora a crescere negli ascolti. Io sono tra quelli che pensano sì, che i manager della Rai non avrebbero dovuto fare questo regalo alla concorrenza, che oltretutto ci costa caro, come ci è costato carissimo in questi anni Santoro, che con comunque l'inventore di un format che piace, di successo, molto di parte, e di informazione tribale, che a me non piace, ve lo dico fuori dai denti, e che si ammanta invece di essere oggettiva. E il bello è che molti di voi ne sono veramente convinti. Sentiamo come la pensano alcuni ascoltatori del vertice di ieri e del tratto residuo di cammino pacifico o bellico. Vedremo tra PDL e Lega. Cominciamo con Elisabetta che ci chiama da Roma. Prego Elisabetta. Buongiorno, allora io sono pienamente in linea con quello che lei dice, Giannino. Faccio riferimento a un articolo apparso il 23-5 e il 23 maggio sul Corriere della Sera a firma di Ernesto Galli della Loggia. Io ho ripreso pari pari questo articolo e l'ho spedito a Lupi ed altri del centrodestra, perché veramente mi dispiace che il centrodestra si sta rovinando da solo. A parte adesso diminuire le tasse che dovrebbe fare Tremonti, ma Ernesto Galli della Loggia dà dei consigli, anche se non è un berlusconiano, al nostro governo, all'attuale governo, facendo riferimento a dei modi per fare delle riforme a costo zero, per esempio quello di occuparsi del perché l'andamento dei prezzi della benzina, scusi parlo come lei così velocemente, dei prezzi della benzina, delle assicurazioni RC auto attualmente sottoposti a totale arbitrio speculativo dei petrolieri, nel sottrarre comuni e province, poi contrattare con le poste, poi si riferisce alla liberalizzazione delle farmacie, alle liberalizzazioni dei neotai, al togliere dunque tutto ciò che riguarda i giornalisti, eccetera. Tantissimi consigli che Galli della Loggia dà al nostro governo, all'attuale governo, a costo zero, per fare riforme a costo zero. E lei dice, fatele. Mi piace, non mi ha risposto, però logicamente io non è che esigo una risposta, ma vorrei che veramente questo fosse preso in considerazione. Lei che ne pensa? Io sono abbastanza d'accordo, penso che le riforme a costo zero si possono fare più avanti. Il problema è per assicurarsi l'impatto del proprio elettorato una volta prese le promesse elettorali e gli effetti economici, sono quelle invece che hanno un impatto, quelle riforme che non sono a costo zero, quelle bisogna farle all'inizio della legislatura invece che pensare a se stessi. Questa componente del pensare a se stessi è una componente molto forte della delusione, secondo me legittima, giusta e ampia, come si vede nelle urne, degli italiani nei confronti del Berlusconi nelle ultime elezioni politiche. Sentiamo come la pensa Lara che ci chiama da Modena. Prego Lara. Buongiorno. Ascolti, io quello che volevo dire era solo questo, cioè a parte le promesse non mantenute, io volevo sapere, ma se devono diminuire la spesa pubblica, perché non cominciano col diminuire il numero dei parlamentari? Tutti i loro vantaggi, aereo a costo zero e quant'altro, tutti i loro privilegi, l'uso delle auto blu per cose personali, cioè queste cose le paghiamo tutti e non è giusto. E non è giusto per niente. Io parlerò con Giordano, l'autore del libro di cui abbiamo parlato sulle pensioni privilegiate alla fine della settimana scorsa, per tentare di fare un manifesto in cui vi chiederemo magari di firmare o di impegnarvi, perché appunto la politica su questo, contro gli stracosti della politica dei privilegi, faccia molto più di quello che si è visto. Anche nel scorso luglio Tremonti aveva proposto le cose, in finanziaria poi si sono autorodotte, abbiamo degli scandali come per esempio i dipendenti della Banca d'Italia che sono in sciopero contro i tagli che erano stati adottati dal governatore uscente Mario Draghi. I dipendenti della Banca d'Italia sostengono di non essere dipendenti del pubblico impiego, che il Parlamento non ha titolo per intervenire sulle loro retribuzioni. Io rispetto la Banca d'Italia da sempre, ne difendo l'autonomia e l'indipendenza, dico ai dipendenti e ai sindacati della Banca d'Italia che sostengono questo, due punti: vergogna! Vergogna se sostenete questo, non avete idea di quanto siete pagati di più per quello che fate, che è molto importante rispetto agli altri, eppure sostenete questo. Ma potrei andare avanti molto a lungo. Sentiamo Alberto che invece ci chiama da Biella. Prego Alberto. Sì, buongiorno dottor Giannino. Io volevo dire questo. A me sembra quantomeno singolare che l'onorevole Lupi parli ancora di sfide affascinanti. L'ho sentito adesso, pochi minuti fa, sfide affascinanti. A questo signore bisognerebbe dare alcuni dati, che lei sa sicuramente molto meglio di me, circa la crescita ad esempio della Germania, che nei primi tre mesi di quest'anno ha avuto una crescita del PIL dell'1,5%. Cioè quasi del 5% come proiezione annuale, insomma, ecco. Esatto, contro lo 0,9 previsto. Noi, se non vado errato, siamo cresciuti dello 0,1%. Esatto. Questo vuol dire che noi siamo delle biciclette e loro sono seduti su una Ferrari. Guardi, più che biciclette, monopattini allo stato attuale, mi pare di capire. Bravo Alberto, la penso come lei. E invece la linea è: non è vero che non cresciamo, questo lo dicono solo gli economisti che si illudono e non sottolineano abbastanza gli sforzi fatti per il rigore. Su questo si litiga molto con Giulio, perché Giulio dice: mi dovete riconoscere che io, non avendo fatto deficit di spesa pubblica aggiuntiva, non ho drogato la crescita. E io dico: hai fatto benissimo, ma però per la crescita servono interventi sulla liberalizzazione dei mercati, sull'apertura della concorrenza nel settore pubblico che non ce l'ha, eccetera eccetera, e servono meno tasse, quindi ancora meno spesa pubblica. E questa roba andava fatta a inizio legislatura, perché questi problemi li conosciamo da 15 anni, da 15 anni, i problemi della bassa crescita italiana. Sentiamo Leonardo, che ci chiama dalla provincia di Bergamo. Prego Leonardo. Buongiorno Giannino. Io volevo semplicemente intervenire, in quanto sono autore di un libro che riguarda proprio Umberto Bossi. Ah, Sacco, come stai? Ciao, buongiorno. Eccoci. Buongiorno. No, una cosa semplice, guarda, solo per ti ringrazio per questo spazio. Due cose. La prima è che ogni volta che si tocca la questione fiscale si ricorda la mancata rivoluzione liberale di Silvio Berlusconi, ed è verissimo. Ma bisognerebbe ricordare cosa raccontava Lega negli anni 90 in merito al fisco italiano e soprattutto addirittura a due scioperi fiscali, a due rivolte fiscali che la Lega aveva lanciato, che assolutamente sono rimasti lettera morta. La seconda cosa è un po' più politica. Io un libro, per il quale non ho mai avuto una querela, tanto per essere chiari, sono 5 mesi che... Ne vogliamo ricordare di nuovo il titolo? È Umberto Magno, la vera storia dell'imperatore della Padania. Benissimo. Bene, in questo libro io racconto di come il rapporto politico fra Umberto Bossi e Silvio Berlusconi non sia più un rapporto politico alla pari, per il semplice fatto che esiste, io lo porto in giro ogni volta le mie presentazioni, un documento, tra l'altro pubblicato anche su un altro libro, quello di De Lucia, che ricorda che nel 2000 Forza Italia, con lettera firmata da Giovanni Dell'Elci, che era l'allora amministratore di Forza Italia, diede 2 miliardi di lire, perché allora c'erano ancora le lire, alla Lega Nord per uscire dal grosso problema economico che la Lega aveva con tutte le iniziative fatte. Lì iniziò un rapporto che è diventato un rapporto, a differenza di quello che solitamente raccontano i giornali, non di Bossi che tiene, diciamo, per la giacchetta Berlusconi, ma esattamente il contrario. E bastano anche gli atti politici a dimostrarlo. Guardi quante volte è stato minacciato: staccheremo la spina, toglieremo al Berlusconi la possibilità di governare, eccetera. E puntualmente invece si ritorna a dire: governeremo insieme. Ecco, io ci terrei a dire questo per particolare, la cosa va molto approfondita, però la ringrazio per questo spazio, perché credo che il rapporto fra Silvio Berlusconi e Umberto Bossi non possa non essere raccontato attraverso documenti e fatti che ne testimoniano questo tipo di relazione. Allora, io ringrazio Leonardo Sacco e invito tutti voi in ascolto, soprattutto se avete simpatia, avete lettori, elettorato recente o di medio-lungo periodo leghista, o se siete poi consiglieri, amministratori, dirigenti, quadri della Lega, riflettere su quello che ha detto Leonardo Sacco, magari a leggere anche il suo libro Umberto Magno. È vero o non è vero che anche la Lega da tempo ha un rapporto, diciamo così, di sussidiarietà fiscale nei confronti del capo del centrodestra e dominus patrimoniale del PDL e dopo anche Forza Italia? C'è questo aspetto? Vi preoccupa come elettori, simpatizzanti, quadri, dirigenti leghisti? Oppure è una calunnia ed è falso? Ma in questo caso allora perché non smentirla e dire che quei documenti non sono veri? Perché se è così è ovvio che c'è un rapporto politico, diciamo così, influenzato da elementi impropri. Ancora rapidissimamente Sandro da Milano, prego Sandro. Buongiorno Giannino, niente, volevo solo dire, sono d'accordo con lei su che bisogna tagliare la spesa, io lavoro nella pubblica amministrazione, piuttosto che aumentare le tasse, però no ai tagli lineari, perché io penso di lavorare in una organizzazione virtuosa. Ah, ma non mi deve convincere, è vero, i tagli lineari hanno proprio l'effetto di punire i virtuosi e di non far rimarcare chi ha fatto molto in questi anni, come è capitato ai danni della Regione Lombardia con la scorsa taglia. Invece bisogna scegliere capitolo per capitolo e spiegare laddove si è fatto bene e va salvaguardato e incentivato, e laddove invece non c'è giustificazione. Quindi Sandro, la sua polemica su noi tagli lineari mi trova integralmente d'accordo, anche su questo in effetti discuto amabilmente, cioè litigo in altre parole, con Giulio Tremonti. Bene, si è visto in coda che, come vedete, la libertà di informazione è pane di questa rete, che pensiate voi? Poi il giorno in cui non ci sarò più stapperete lo champagne, chissà, forse il giorno è più prossimo di quanto pensiate. Liberazione anche da Giannino. Bene, intanto linea al giornale radio e appuntamento a domani.